in primo piano. Ed è proprio la politica, le elezioni anticipate che ieri sembravano imminenti, oggi sembra invece che si sia fatto un passo indietro. Ieri ha parlato dopo un lungo silenzio Berlusconi. Berlusconi no al voto anticipato sul Corriere della Sera, mai pensato alle elezioni La Stampa, mai pensato al voto Il Messaggero. Ultimo tentativo di fare la pace, il titolo del giornale. Se si vota Silvio stravince, questo è Libero che propone un sondaggio, poi lo vedremo. Repubblica invece sceglie Battisti, è la seconda altra grande notizia. Battisti sì all'estradizione. Per quel che riguarda il Sole 24 Ore, l'apertura economica, meno prestiti all'impresa, il Premier apre al taglio IRAP quando i conti lo consentiranno. Ma restiamo e partiamo proprio dalla politica. Come detto Berlusconi, dopo le parole di Schifani, che Berlusconi avete sentito anche nel GR, ha definito ovvie, ha fatto una marcia indietro, mai pensato alle elezioni. Ci sono vari resoconti politici e anche alcune interviste. Partirei dalle due che il Corriere della Sera mette a pagina 5 a due esponenti del PDL, ma con visioni diverse in questo momento. Il ministro Sandro Bondi, intervistato da Sergio Rizzo, e Italo Bocchino, Finiano, ex AN. Bondi dice: ora serve una prova di lealtà politica, le divisioni sono dannose, le elezioni sarebbero una sconfitta per il PDL oltre che per il paese. E poi dice il messaggio è diretto al partito nella sua interezza, il messaggio di Berlusconi. A questo punto il partito deve mostrare consapevolezza politica e storica delle sfide che ha davanti questo governo. Un Bondi che dice ora serve una lealtà da parte di tutti. Bocchino è intervistato da Aldo Cazzullo. A fianco risponde così: se c'è qualcuno che vuole la conta, si faccia avanti. Di cosa ci si accusa? Di essere stati leali sempre, di non aver mai mollato Berlusconi? Siamo gli unici a non avere mai rotto con lui, a differenza di Bossi e di Casini. E sul PDL, sul Popolo della Libertà, sentite come lo definisce Bocchino: è un bambino piccolo, di meno di un anno, ha le sue fragilità, bisogna nutrirlo, curarlo, insegnargli a camminare. È stato un errore pensarlo come la prosecuzione dell'alleanza di prima, se è lesa maestà chiedere una riunione. Insomma, le tensioni un po' rimangono. Come detto, Libero mette questo titolo in prima pagina: se si vota Silvio stravince, e propone un sondaggio di Nicola Piepoli, secondo il quale ci sono le proiezioni di quelli che sono i voti oggi. Per esempio, il PDL sarebbe al 38,5%, un per cento in più rispetto al 37,4% delle ultime politiche. La Lega dall'8,3% del 2008 sarebbe al 9,5%. Il Partito Democratico dal 33,2% del 2008 al 27,5%, dunque perderebbe rispetto alle politiche, ma sarebbe in vantaggio rispetto alle ultime europee di un punto percentuale. L'Italia dei Valori guadagnerebbe molto, dal 4,4% alle ultime politiche al 7% attualmente. Insomma, se si va alle urne, Berlusconi vola al 38,5%, questo secondo Nicola Piepoli, anche se l'idea che ci sia stata una sorta di stop è proprio data dal Riformista, per esempio. Elezioni rinviate, questo è il titolo del Riformista. Berlusconi frena i falchi, ma Fini e Bossi riprendono a litigare. Addirittura, secondo Il Fatto, il titolo è emblematico, in prima pagina: gli ultimi giorni del PDL. Litigano su tutto, dal processo breve al caso Cosentino. Sugli immigrati Fini dice cittadinanza, Bossi cacciamoli. E Berlusconi pensa solo alla sua impunità. Insomma, per Il Fatto invece la situazione è di grande tensione. Fini e B ai materassi. B ovviamente è Berlusconi, questo è l'articolo all'interno di Luca Telese. Come detto, il confronto o lo scontro o insomma è quello che sta succedendo nella maggioranza di difficoltà è il nuovo fronte che si è riaperto, la verità è quello degli immigrati. Come detto, ieri è stata fatta una proposta di legge per dare il voto agli immigrati extracomunitari che da 5 anni sono in Italia regolarmente alle amministrative, è il tema del nostro sondaggio, come detto ve lo ricordo, andate a votare lì, e tra l'altro devo dire che già state votando in molti, per ora il 52% è contrario, dunque vi state dividendo a metà. Riparte il duello Bossi-Fini sugli immigrati, l'ultima lite. Così il Corriere della Sera: tornino a casa, non c'è lavoro, dice Bossi. La replica di Fini: anatemi inutili. E, voto a chi è in Italia da 5 anni, DDL bipartisan e scontro Bossi-Fini, questo su Repubblica. Tra l'altro Repubblica mette sotto, legata a questa notizia, una notizia che ha solo il quotidiano di Ezio Mauro: Tosi come Gentilini. Chi è Flavio Tosi? Il sindaco di Verona. Come Gentilini, vale a dire colui che è stato per anni sindaco a Treviso. Dopo la condanna inflitta al fumantino vice sindaco di Treviso, tocca ora al primo cittadino della Lega di Verona subire l'onta e le conseguenze di un provvedimento definitivo per i suoi eccessi contro gli immigrati. Tosi è stato infatti condannato per avere detto alcune frasi, avere distribuito alcuni volantini molto duri nei confronti dei cittadini di origine sinti del 2001. Ebbene, anche per lui, oltre a 2 mesi di reclusione, la pena è sospesa, i giudici hanno stabilito in via definitiva il divieto di partecipare a comizi politici per 3 anni. Una pena accessoria di fatto congelata, scrive Repubblica, ma che fissa dei paletti. Tosi è stato punito per propaganda di idee fondate sulla discriminazione e l'odio razziale. Razzismo, divieto di comizi per il sindaco Tosi per 3 anni. È la stessa pena che era stata inflitta appunto poco fa, qualche giorno fa, a Gentilini, con annesse polemiche. Libero la tratta così: incidenti di maggioranza alla vicenda, insomma, degli immigrati. Ci sono i finiani col PD, perché la proposta appunto è di confirmatari Veltroni del PD, Leoluca Orlando dell'Italia dei Valori, Rao dell'UDC, ma ci sono anche alcuni del PDL, Flavia Perina, Fabio Granata. Quest'ultimo sarà anche il nostro ospite alle 8.30 per parlarne, insomma, alcuni del PDL che hanno fatto una proposta di legge insieme a quelli del PD e dell'opposizione. E tanto è vero che conviene oggi guardare il titolo d'apertura della Padania, che ieri metteva proprio i nomi, come dire, segnatevi questi nomi: Fabio Granata, Flavia Perina, coloro che insomma firmeranno una proposta di legge con l'opposizione. Oggi la Padania titola sulle frasi di Umberto Bossi: non c'è lavoro per tutti, stranieri a casa. Bossi replica la proposta bipartisan di cittadinanza facile per gli immigrati, priorità ai nostri giovani. E poi, vabbè, esclude anche il voto. Questo è quello che bolle nella pentola molto molto confusa della politica in questi giorni. L'altra grande notizia che trovate, sulla quale Repubblica, come detto, è aperto, è quella di Cesare Battisti, dove c'è un ottimismo diffuso sul fatto che la Corte brasiliana abbia deciso 5-4 per l'estradizione, o meglio, che Cesare Battisti possa essere estradato. Forse c'è un ottimismo un po' troppo diffuso, perché in realtà l'ultima parola spetta al presidente brasiliano Lula, che potrebbe anche opporsi. Cesare è davvero finita. In cella si spegne il sorriso beffardo, questo è il titolo di Repubblica. Omero Ciai parte in prima pagina col direttore del carcere che ha comunicato a Cesare Battisti, voglio ricordare, ex militante dei proletari armati del comunismo: 4 ergastoli definitivi in Italia, è in Brasile dopo che era fuggito dalla Francia. L'Italia chiede l'estradizione, c'è stato anche l'applauso bipartisan, come abbiamo sentito a Montecitorio, la notizia della estradizione concessa, però ripeto, c'è ancora da attendere. Il Corriere della Sera in prima pagina con Giovanni Bianconi fa un commento dal titolo: la giustizia e la memoria, l'aspetto più rilevante della decisione presa ieri dal Supremo Tribunale brasiliano, scrive Bianconi, è l'aver stabilito che Cesare Battisti non è un perseguitato politico. Lo hanno detto dei giudici che hanno svolto considerazioni giuridiche prima che politiche. L'ex militante dei proletari armati per il comunismo è stato condannato al carcere a vita per omicidio plurimo e aggravato. È stato processato in Italia, come migliaia di altri appartenenti al partito armato. Insomma, è la battaglia politica, però, scrive Bianconi, non è chiusa. Dipenderà dalle mosse del presidente Lula e dal ministro della giustizia, che 10 mesi fa aveva concesso all'ex terrorista lo status di rifugiato politico. Infatti viene intervistato un po' ovunque Alberto Torreggiani, che dice: ora può incominciare a uscire dalla mia vita, per esempio, in questa intervista a Paolo Colonnello sulla Stampa. sconti almeno qualche anno, e però insomma bisogna, ripeto, attendere. Mentre il Messaggero che cosa fa? Fa un po' l'elenco di quelli che sono i 140 terroristi in fuga, a pagina 4 sotto la cronaca della concessione dell'estradizione. Beh, ci sono tutti i nomi, da Alessio Casimirri, che partecipò al comando che rapì Aldo Moro, che ormai l'ha fatta definitivamente franca, sta in Nicaragua ed è ormai cittadino, tra l'altro, nicaraguense, dunque intoccabile. Ma poi ce ne sono molti in Francia, il caso dell'ex BR Marina Petrella, forse lo ricorderete, si è mosso anche Sarkozy. Ma sono 140 i terroristi in fuga, secondo il Messaggero, che l'Italia in qualche modo richiede, e che però hanno situazioni, ognuna diversa dall'altra, e che sono prevalentemente all'estero. In primo piano. Meno prestiti all'impresa, questo è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore, un po' allarmato perché le vie della ripresa all'interno, a pagina 3, Rossella Bocciarelli spiega bene che cosa è successo, che per la prima volta dopo molto tempo, secondo il rapporto mensile dell'ABI presentato ieri all'esecutivo che si è tenuto a Milano, si è segnalato un calo dello 0,2% sullo stesso periodo del 2008 per quel che riguarda il credito erogato, il flusso dei finanziamenti alle imprese. È dunque per Confindustria l'effetto della stretta sull'offerta, e tra l'altro per capire quelle che sono le difficoltà delle imprese, Jacopo Giliberto spiega anche molto bene quello che è un vulnus da anni in Italia, che martedì scorso il presidente di Confindustria Marcegaglia ha ribadito, insomma, quello dei crediti che le imprese godono nei confronti della pubblica amministrazione, che però non vengono pagati, insomma vengono pagati con tempi lunghissimi. Il Ministero della Giustizia dovrebbe essere quello che per sua natura segue la legge nel modo più accorto possibile, scrive Giliberto. Ecco come nella gara per la mensa della polizia penitenziaria fissa pagamento a 6 mesi, e la legge del 2002 fissa un mese al massimo, e gli interessi per il mancato pagamento all'1%, mentre la normativa impone un interesse di diversi punti. A chi rivolgersi per fare rispettare queste norme? Ai carabinieri? Il bando per la mensa dei militari prevede un pagamento fuori legge a 90 giorni, interessi al 2,5%. Insomma, sono alcuni di questi casi che, dice Giliberto, mettono poi in crisi molte aziende che sono creditrici, appunto, e aspettano giorni, alcune anni, alcune almeno un sistema pubblico di almeno 2 anni, 730 giorni per vedere i riconosciuti soldi che spettano, e questo crea ovviamente un oggettivo problema. Trovate anche molto sul Sole 24 Ore, torna sulla vicenda dell'acqua. Votata la fiducia sui servizi locali, Suez e Veolia pronte a crescere in Italia, la vicenda dell'acqua, acqua pubblica, acqua privata. L'acqua come bene rimane pubblico, diciamolo sempre, ma la gestione è aperta anche ai privati, ne parlerà oggi Oscar Giannino alle 9. E dunque ascoltate lì che ne sapremo qualcosa di più. La notizia poi invece finanziaria del giorno è sicuramente quella di Ferrero che scende ufficialmente in campo per conquistare il cioccolato della Cadbury. Ipotesi spezzatino per Cadbury e l'apertura di Finanza e Mercati, allegato ovviamente al Sole 24 Ore, l'inserto del Sole 24 Ore. L'interesse, che è definito come valutazioni preliminari da parte della compagnia, dell'impresa italiana, sostanzialmente, tra l'altro, Ferrero dovrebbe alla fine allearsi con il gigante americano del cioccolato Hershey, quello che produce le barrette Kit Kat, tanto per intenderci. Insomma, c'è grande fermento, c'è grande movimento a livello finanziario, con Intesa San Paolo, scrive il Sole 24 Ore, pronta a scendere in campo per dare il supporto finanziario alla acquisizione. Voglio andare a qualche notizia curiosa, o comunque che trovate in esclusiva sui vari giornali. Per esempio, sono stati scarcerati questi due studenti che erano stati arrestati per le manifestazioni dell'Onda qualche giorno fa a Milano. La notizia però che trovate un po' su tutti i giornali, la leggo da Il Giornale, è il metodo anti-occupazione che hanno escogitato alcuni professori del liceo di Roma Morgagni, il liceo scientifico. Hanno saputo che il giorno delle manifestazioni, attraverso Facebook, questa volta i genitori sono stati più tecnologici degli studenti, che gli studenti volevano occupare quel liceo, e allora che cosa hanno fatto? Hanno fatto un metodo anti-occupazione. Hanno occupato loro, i professori, il loro stesso liceo, impedendo per oltre 50 ore agli studenti di entrare, e quindi una sorta di controoccupazione per impedire l'occupazione degli studenti. Una controoccupazione iniziata lunedì mattina, il metodo antioccupazione, professori barricati nel liceo, così si legge sul giornale, ma ne parlano anche Corriere e Repubblica. La vicenda invece incredibile a cui ci porta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera è questa. Forse ricorderete una terribile storia, quella di Massimo Merafina, che ha ucciso la sua compagna che portava all'asilo il bimbo, davanti al bimbo in strada a Milano. 23 giugno, martedì mattina, quando uccise a coltellate l'ex moglie, 33enne Monica Morra, che davanti all'asilo aveva in braccio il loro figlio di 2 anni, Massimo Merafina non sarebbe dovuto essere libero, ma avrebbe dovuto già trovarsi in carcere da almeno 3 giorni, in forza di un ordine d'arresto che 3 giorni prima era stato emesso dal tribunale di sorveglianza, comunicato via fax alle forze dell'ordine, ma per un disguido o un difetto della ricezione, il commissariato cominciò formalmente a cercare Merafina solo il lunedì successivo, un vuoto di 48 ore durante il quale appunto Merafina ha ucciso la ex moglie. Luigi Ferrarelli ricostruisce questa vicenda incredibile, insomma, di un fax spedito al commissariato di polizia. Il risultato del fax è ok, ma il commissariato o non arriva o si perde il fax, 48 ore di vuoto e... Questo Merafina uccide nel frattempo la sua ex moglie. Ci dobbiamo fermare qui. Solo il titolo della Gazzetta dello Sport, che deve rendere un po' di giustizia al trap, che furto. L'Irlanda è stata estromessa dai mondiali, è passata la Francia, ma l'Irlanda era quasi vicino a un miracolo, era riuscita a vincere 1-0, vinceva 1-0 in Francia, ribaltando lo 0-1 subito in casa. Che è successo? Un gol clamorosamente, palesemente viziato da un fallo di mano da parte dei francesi in pieno tempo supplementare, porta la Francia ai mondiali. Vabbè, insomma, grande nazionale che però noi abbiamo battuto. Trap, che furto, questo è il titolo della Gazzetta in apertura. Ci fermiamo, votate il sondaggio, dareste il voto agli extracomunitari regolari da 5 anni in Italia per le amministrative, sì o no, dopo GR24.